X24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Tempo fa, Mario Draghi, il presidente della Banca Centrale Europea, ha affermato correttamente che se l'euro vuole essere un successo in tutti i paesi, deve avere successo ovunque. Crediamo che sia assolutamente giusto. L'obiettivo è rimpiazzare un dissenso costoso con un consenso efficace. La decisione di una moneta unica rappresenta ed ha rappresentato l'unificazione europea come nessun'altra decisione europea. Per questo è giusto ed irrinunciabile aver riflettuto e riflettere molto attentamente sui passi da compiere nel caso della Grecia. Gli sforzi della Germania restano tesi a far sì che la Grecia rimanga nell'eurozona. Vogliamo che la gente in Grecia possa avere di fronte la prospettiva di un futuro migliore. Un accordo con le tre istituzioni è ancora possibile e sono ancora convinta di una cosa: se c'è la volontà, c'è anche una strada. Buongiorno, erano Tsipras e la Merkel alla vigilia dell'incontro chiave forse di oggi. Ecco, Dimitri De Leonades, giornalista, corrispondente del canale TV RT in Italia, ha scritto il libro La sfida di Atene, Alexis Tsipras contro l'Europa dell'austerità. A 5 mesi dall'uscita di questo suo libro e 5 mesi di Tsipras al governo, riscriverebbe il titolo o sempre questo? Buongiorno. Buongiorno, beh, sicuramente il titolo è sempre quello, perché mi sembra che la sfida non sia mai venuta meno. No, ecco, però adesso Tsipras ieri ha detto l'Europa non è l'unica possibilità. Gli americani forse lo temono che sia così e premono sulla Merkel, temono una Grecia che si sposti verso la Russia? Allora, veramente quello che ha detto Tsipras l'ha detto a San Pietroburgo, ha detto che i greci sono abituati a navigare anche in mari sconosciuti pur di cercare di trovare un porto che gli dia sicurezza, sì. Allora, sicuramente non era casuale questa allusione. Beh, naturalmente. Esatto, sicuramente c'è un intenso collaborazione con la Russia per il momento in campo degli affari, nel campo degli affari, dell'affare energetico, ma anche per le privatizzazioni. Sì, sì, ma Putin, stiamo parlando di questa situazione di oggi. Ecco, Putin potrebbe essere la sorpresa in questa partita oppure no? No, beh, io credo che nel momento in cui siamo in questo momento, no, Putin sia fuori gioco. Senta, ma gli americani premono però sulla Merkel perché hanno un'idea chiara sul fatto che se la Merkel perde la Grecia, l'Europa rischia molto di più. Sicuramente ci sono pressioni non neanche tanto nascoste, ma da parecchio tempo di Washington su Berlino per cambiare la sua dura politica di austerità e non creare problemi geopolitici. Ecco, ma in una settimana, Dimitri, i cittadini greci hanno prelevato dalle banche circa 4 miliardi più o meno di euro. Non c'è più fiducia in nulla, insomma, paura vera. Pronto? Pronto? È caduta la linea, allora intanto abbiamo al telefono Tobias Piller. Tobias? Buongiorno. Ah, buongiorno, corrispondente della Frankfurter Allgemeine Zeitung. Il ticket Merkel-Schaub sulla Grecia sta per esplodere o continua a camminare di conserva? Secondo me Schäuble è abbastanza critico di accordi troppo politici che potrebbero rivelarsi fasulli e poi non portare da nessuna parte. Però oramai mi sembra che la partita si è spostata sul piano della politica pura. Cioè i tecnici sono un pochino messi da parte, se non ho capito male. La Merkel è cauta, non farebbe mai tutto da solo. No, però oramai è costretta in qualche modo a fare molto da solo, da sola. O sbaglio? Il problema è che la Grecia veramente è un paese che adesso mette l'Europa di fronte a due opzioni abbastanza brutte. Una opzione è quella di fare un accordo così a condizioni, diciamo, di svendita così abbastanza fasullo, che poi porta nuovi soldi alla Grecia, che poi va avanti come niente fosse, e certamente non risolve nulla. Abbiamo di nuovo Dimitri al telefono, era caduta la linea, e allora possiamo riprendere. Intanto Tobias ci ascolta. Dicevo, questa opzione Putin, secondo lei, è un'opzione puramente, diciamo, giornalistica? No, è un'opzione che comincerà da contare nel caso malaugurato in cui non si raggiunga un accordo e si arrivi a una tra Grecia e l'Eurozona. Ecco, ma nell'ultima proposta per la riunione di oggi si sa qualcosa dell'offerta, qualcosa di preciso dell'offerta del governo greco? Della proposta? Beh, sì, sui giornali parecchie anticipazioni. No, sui giornali sì, ma sono quelle vere? Pare di sì, perché non ci sono state smentite, non sono state sono nello spirito della trattativa, nello spirito delle riforme che già erano state annunciate. Ecco, ma che cosa è veramente inaccettabile per la Grecia oggi? Tagliare le pensioni. Questo è inaccettabile. Le pensioni però sono in molti casi delle baby pensioni. Sono sì, infatti queste saranno abolite in termini più accelerati di quello che prevedeva il primo piano. Quindi su questo c'ha ragione l'Europa? Sì, era una cosa di cui si parlava già dalla prima, da marzo. Sì, cioè la proposta di Varoufakis prevedevano l'abolizione dei prepensionamenti e delle baby pensioni, salvo alcuni casi in cui effettivamente sono necessari. Ecco, Tobias, secondo lei è un punto di trattativa possibile, sufficiente, quello sulle pensioni? Non so se questo basterà a far crescere la Grecia, perché il punto di fondo è quello che l'Europa voleva dall'inizio, anche con quel piano che era dentro agli accordi, voleva avere che la Grecia possa stare sulle proprie gambe e crescere così autonomamente, così con le proprie forze. E certamente quel governo sogna invece una situazione dove l'Europa paghi il ritorno ai tempi felici di un'economia drogata da credito. Lo so, però questa qui è in un certo senso un'analisi, è la solita analisi, ma adesso bisogna uscirne dal problema. E quindi come stavo dicendo, sì. L'Europa sta davanti a sé, davanti a sé questa brutta scelta, o con quel governo di fare un accordo con poche condizioni, così i soldi saranno spesi e non ci saranno così le premesse per una crescita, o invece avere una rottura e di avere l'Europa come il colpevole di fronte al nazionalismo greco. Sì. Tobias, ma quali sono gli errori che ha fatto la Merkel in questa trattativa, quando tutti dicono che si sarebbe potuto risolvere facilmente piano politico? Guardi, permettete che queste prego. sono cose che vengono dette da persone che non hanno mai visto i numeri dello sviluppo economico della Grecia, non hanno mai visto. Basta andare al sito di internet del Fondo Monetario e scaricarsi questo memorandum per il risanamento della Grecia. Il Fondo Monetario però parla di numeri, qui stiamo parlando di politica, che è spesso una cosa diversa. Dimitri, che cosa? Dimitri? Sì, ascolto. Ecco, i greci effettivamente i bilanci li hanno falsificati per entrare nell'euro. Questo è vero, è dimostrato. Però a questo punto qual è la cosa che i greci possono accettare? Stavamo parlando delle pensioni. Sì. Pronto. Ecco, è questo il punto? Sì, i punti sono due. Il primo è la pensione, le pensioni, e il secondo punto in discussione. Purtroppo non si riesce a sentire in un posto dove non so se è la Grecia che sta uscendo anche dai telefoni. Sta uscendo anche dai telefoni. Tobias. Sì, di nuovo. La Grecia ha offerto varie misure per aumentare le entrate, soprattutto aumentando le tasse per chi è benestante e per aumentare anche la lotta contro l'evasione, per la quale anche aveva dall'inizio così dalla sua parte quel governo anche l'Europa. Sì, ma Tobias, ma la Merkel cosa ha sbagliato, stavamo dicendo? La Merkel secondo me è stato molto cauto, e questa cosa che all'inizio si avrebbe potuto salvare la Grecia dalla crisi con pochi miliardi è una balla. No, ho capito, allora non ha sbagliato niente? Perfetto. Non si può dire ha sbagliato niente, forse hanno sbagliato a far crescere questa situazione fino a questo punto. Sì, ma se salta la Grecia, salta l'Europa? No. Perché? Perché se la Merkel non dimostra di avere una capacità di leadership per tenere l'Europa unita, vuol dire che l'Europa a guida tedesca è servita solo alla Germania. Guardi, siamo sempre allo stesso punto. Contesto questo punto, che questo sarebbe forse un'Europa a guida. La Grecia deve fare lì un accordo con 18 altri paesi, di quali vari sono più poveri di loro e vari hanno fatto riforme molto più dure. Per esempio, più poveri? Portogallo, Slovacchia, Estonia, Lettonia, Lituania. Dimitri? Sì. Ci siamo ancora? Ci sentiamo? Sì, sì. Sì, sì. E allora cosa dice? Cosa risponde a Tobias? È vero? Ma veramente queste cose con Tobias ne discutiamo, sono parecchi anni che abbiamo questo dibattito in corso. No? È inutile. È una cosa che non sta né in cielo né in terra. Che ragionamenti sono questi? Non ho capito. Più duri in Portogallo non è vero, non è vero. I paesi più poveri sì, sono più poveri. E allora? Non capisco il ragionamento. Molti di questi paesi che lui ha citato poi non stanno neanche nell'Eurozona. Per cui francamente non c'è logica dietro a quello che lui dice. Ecco, Dimitri, ma se salta la Grecia, secondo lei salta l'Europa? Ovviamente. Sì? Certo. Cioè un banco di prova definitivo per la leadership della Merkel? Direi non solo della Merkel, direi proprio della classe politica europea. E come va a finire oggi, per finire? Ci sarà un accordo, io credo, io sono ottimista, sarà però purtroppo non l'accordo definitivo, ma sarà un accordo transitorio in maniera da discutere a fondo il problema del debito. Cioè che consente di arrivare a luglio e poi dopo luglio, agosto, sì, eccetera. Sì, passare l'estate, che è il periodo più duro con i pagamenti più pesanti per il debito. Se la Grecia riesce a passare questo periodo versando il resto del debito del 2012, che è quello di cui si sta parlando adesso con l'Unione Europea, potrà con più tranquillità affrontare il problema del debito in maniera definitiva. Ecco, Tobias, per chiudere, secondo te si chiude un accordo oppure no oggi? Si potrebbe chiudere un piccolo accordino, ma c'è sempre sullo sfondo il problema che se qualcuno può sempre andare avanti fregandosene dei accordi, così salta tutta l'Europa. Allora l'Europa salta se si lascia andare così la Grecia. Quindi può saltare l'Europa? Fregandosene dei accordi. Va sì. Bene, ci risentiamo per commentare i risultati, va bene? 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Educare alla custodia del creato per la salute dei nostri paesi e delle nostre città, rispettando l'ambiente e la natura. Centinaia di migliaia di europei a rischio morte prematura a causa dello smog nei prossimi 20 anni. I rifiuti scaricati negli oceani, vere e proprie isole galleggianti. Discariche, i rifiuti tossici, insomma, qua si sta concentrando di tutto. Siamo costretti a innaffiare con l'acqua potabile i pomodori, perché l'acqua di puzzo non è buona. E noi ci avevamo i pecore, noi c'abbiamo i bidoni tossici. Il terreno proprio è morto, nemmeno l'erba cresce, vedi? Se gli investimenti nelle banche calano un po', tragedia, come si fa? Ma si muorono di fame la gente, non hanno da mangiare, non hanno salute, no? Non passa niente. Questa è la nostra crisi di oggi. Dio nostro padre ha dato il compito di custodire la terra, non ai soldi, a noi, gli uomini e le donne. La prossima conferenza mondiale sul clima, in programma a Parigi a fine anno, potrebbe segnare una tappa decisiva per raggiungere un nuovo accordo globale sul clima. Un vecchio contadino una volta mi ha detto: Dio perdona sempre, gli uomini perdoniamo alcune volte, la natura non perdona mai. E credo che noi abbiamo sfruttato troppo della natura. Padre Giulio Albanese, con Boniano, buongiorno. Ma l'idea che la terra è di tutti e va salvaguardata non è una predicazione di tutti i papi? No, non è assolutamente vero. Direi, pensiamo a Paolo VI, al magistero di Paolo VI, Giovanni Paolo II, lo stesso Benedetto XVI, hanno affrontato il tema ecologico. Sì. Ci mancherebbe. Appunto, ma che cosa c'è di diverso nell'ottica di Papa Francesco? Direi che forse la novità è costituita proprio dall'approccio fortemente conciliare, nel senso che Papa Francesco parte innanzitutto e soprattutto da una lettura dei segni dei tempi, nel bene e nel male, quei fatti e quegli accadimenti che appartengono, per così dire, alla storia degli uomini, quindi anche, per dire, la questione ambientale, l'inquinamento e quant'altro. E tutto questo viene giudicato alla luce della parola di Dio, alla luce della tradizione della Chiesa e del Magistero. Ecco, padre Albanese, però l'ex frate Leonardo Boff l'altro giorno scriveva, diceva anzi, che dietro il pensiero di Francesco c'è la teologia della liberazione che Sud America, come molti sanno, ha fatto avvicinare cristianesimo e marxismo. È vero? Fino a un certo punto, diciamo che c'è una forma di teologia della liberazione, gli inglesi direbbero più mild, quella della teologia del pueblo, la teologia del popolo, che ha avuto come maestro Rafael Tello, un pensatore argentino che è proprio da considerarsi uno dei fondatori di questa teologia del popolo. In che cosa consiste? Evangelizzare a partire dal popolo, vedere il popolo come soggetto della storia, immerso in un processo storico. Assumere la cultura, optare per la centralità dei poveri, queste a mio avviso sono un po' le caratteristiche di Papa Francesco. Ecco, ma molti cattolici hanno trovato forzato il rapporto tra il ruolo dell'economia, delle banche soprattutto, e l'aumento delle povertà. Ci può essere sviluppo senza un ruolo del mercato e anche delle banche? Guardi, Papa Francesco è un personaggio perspicace, intelligente, illuminato, e che a mio avviso ha il coraggio di dare voce a chi non ha voce. Non è che stia demonizzando le banche, il problema di fondo qual è? È che le banche hanno delle grandi responsabilità nella crisi che ha penalizzato fortemente. Senza regole la finanza diventa... Il vero problema è la deregulation, il fatto che non vi siano regole. Qualcuno deve rispondere, per esempio il fatto che l'economia finanziaria abbia preso il sopravvento sull'economia reale. Anzi, in realtà il Papa sostiene che la tecnoscienza ha sottomesso sia l'economia che la politica che la natura. Cioè? Diciamo che Papa Francesco da questo punto di vista ha una visione, dal mio punto di vista, estremamente profetica, nel senso che se da una parte prende atto del fatto che i progressi tecnologici, sebbene orientati, sono visti come qualcosa di cui rallegrarsi e entusiasmarsi, dall'altra dice però stiamo attenti perché dobbiamo sempre e comunque affermare il primato della persona umana creata a immagine e somiglianza di Dio. E che se ne dica, purtroppo, un certo modus vivendi, una certa tecnologia, anch'essa senza regole, può fare disastri. Ecco, lei che conosce bene l'Africa, vista dall'Africa, che è il continente emergente, che effetto fa questa enciclica del Papa? Estremamente positiva. Penso anche ai miei confratelli, ai missionari che lavorano, che operano, svolgono il loro ministero in questo grande continente. Non fosse altro perché in queste periferie del mondo sono evidenti i disastri perpetrati da una crisi che dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, ha una forte valenza sistemica. Certo. Ed è estremamente complessa. Senta. Penso che interagiscono vari fattori, non c'è solo il problema per esempio del land grabbing, dell'accaparramento delle terre. Porto un esempio molto concreto, pensiamo alla regione del Delta in Nigeria. Lì sappiamo che ci sono moltissime multinazionali che operano per lo sfruttamento del petrolio, che potrebbe rappresentare davvero una straordinaria ricchezza per quel paese, La verità qual è? Che questo sfruttamento indiscriminato ha generato situazioni di inquinamento che davvero, per usare il linguaggio dell'Antico Testamento, gridano vendetta al cospetto di Dio, e hanno acuito a dismisura paradossalmente l'esclusione sociale. Senta, padre Giulio, ma il Papa sembra escludere però l'esistenza di un'etica interna al mercato che corregga gli eccessi, perché poi il punto è questo. In realtà è questo che serve. C'è bisogno di un'etica. Perché no, ma c'è di bisogno anche dello sviluppo, perché senza sviluppo il problema dei poveri non si possono affrontare. Le due cose non sono assolutamente compatibili. Appunto, e quindi è lì il punto. Il problema di fondo è questo. Il problema di fondo è che oggi c'è una concentrazione di denaro nelle mani di un manipolo di neababbi, questo è il problema. E sì, la verità qual è? Che sono proprio questi signori, in una maniera o nell'altra, ad aver imposto la deregulation. E io credo che i disastri della Grecia e dintorni la dicono lunga. Beh, però hanno la loro responsabilità anche. Certamente. La Grecia ha falsificato tutti i bilanci. Ma nessuno vuole mettere in dubbio questo. No, dico, quindi quando andiamo sull'assoluto diventa un po' complicato. No, stiamo attenti, ecco. Nel senso che insomma, comunque, padre Giulio, mi dica, secondo lei... È inutile che parliamo di solidarietà, è inutile che ci riempiamo la bocca di luoghi comuni. Esatto. Se poi alla fine scarichiamo come dire, gli oneri sulla povera gente. Però, quelli che padre in Giulio, questo momento la crisi in Grecia non la stanno pagando le banche, non la stanno pagando coloro che hanno generato quella crisi. Questo chi l'ha generata poi è difficile da dire uno solo, no? Ci sono delle grandi responsabilità che tra l'altro riguardano anche la Germania e alcune potenze europee. Appunto, diciamo una cosa, padre Giulio, è strumentale o no considerare questo messaggio del Papa anticapitalistico? Ma guardi, Papa Francesco è a favore del mercato, ci mancherebbe. Papa Francesco crede nello sviluppo, sa molto bene che servono i denari. E quindi sono gli eccessi che vanno, gli eccessi della finanza. Che questa economia va regolata, bisogna riaffermare il primato della politica, intesa come affezione alla polis, al bene comune, rispetto anche al mercato. E questo non sta succedendo. Senta, padre Giulio, un'ultima cosa. Oggi il Papa a Torino entrerà in un tempio valdese per la prima volta. Che cosa significa? Guardi, è estremamente importante questo, perché questo incontro con i valdesi, innanzitutto è un'occasione davvero di straordinaria riconciliazione, considerando peraltro che San Francesco e Valdo per certi versi hanno condiviso la stessa vocazione pauperistica. Certo. E la verità qual è? Che purtroppo questo movimento valdese, che rappresenta per certi versi la prima grande riforma all'interno della Chiesa, ha subito persecuzioni da parte anche dei cattolici. È un passaggio di riconciliazione. E quindi devo dire che è un incontro che ha una forte valenza economica ed è in linea un po' con lo spirito del dialogo. Ecumenica più che economica. Dialogica, dalla forte valenza ecumenica e dunque dialogica. Ed è quel dialogo che emerge a chiare lettere anche nell'enciclica. Io credo che non ci sia mai stata un'enciclica, scusami se questo aspetto lo sottolineo con forza, siamo in chiusura. Credo che non ci sia mai stato un'enciclica dalla forte valenza ecumenica, dialogica come questa. Vengono citati teologi del protestantesimo, il patriarca di Costantinopoli. Questo è bellissimo. Grazie. Grande apertura mentale da parte di Padre Giulio. 800 24 0024 numero verde, 349 238 6666 l'SMS pubblicità. Mix 24. Ont-ils oublié leurs promesses? Au moindre rire, au moindre geste. Les grands amours n'ont plus d'adresse. Quand l'un s'en va et l'autre reste. N'est-il péché que de jeunesse? N'est-il passé que rien ne laisse? Les grands amours sont en détresse. Dolcezza metropolitana. Perché uno parte, l'altro resta. Era tutto così oggi alla stazione. Sono uscito appunto a Termini stamattina, però non sono andato nella piazza, ma sono passato dalla parte dei treni e lì ho visto tutta una sequenza di addii, e appunto addii, non erano arrivederci, perché non avevano destinazione. Erano tutti come uccelli senza approdo e l'unica loro strada era l'errore, qualche promessa dimenticata e dunque sempre uno che parte e l'altro che resta. E in un binario c'erano tante donne e in un altro invece tanti uomini, a restare invece, dimenticati dalla folla brulicante di una nuova giornata, i grandi amori, tutti senza destinazione. Sont-il chagrin dès qu'il vous blesse au lendemain de maladresse? E allora Mario, questo lunedì da dove cominciamo con le bolle? Allora. Bellissimo pezzo, un po' antico, qualcuno direbbe, ma My Sharon, un dei Kiss, sentiamolo ancora. Allora, torna a loro perché momenti di crisi. Sì. Allora, l'interesse per il lingotto non è che se n'è mai andato. Beh, però, era crollato però, abbastanza. Sì, aveva avuto un rally molto forte negli anni scorsi e poi si è ridimensionato tantissimo. Adesso, soprattutto dopo la riunione della Fed di qualche giorno fa, il prezzo del bullion, perché si chiama così, ha cominciato di nuovo a correre. La scorsa settimana sono stati investiti la bellezza di 880 milioni di dollari in asset sull'oro. Quindi se a causa di Grecia, anche se secondo me, soprattutto secondo i mercati in questo momento, perché la borsa sta aperto a razzo, e quindi più la Fed potrebbe incidere su... Insomma, scommettono tutti sul fatto che si fa l'accordo. Sì. Sì, e però loro lo devi tenere presente, lo devi controllare nelle prossime settimane, perché il rialzo dei tassi da parte della Fed prima o poi ci sarà, innescherà diciamo uno scenario un po' nuovo, certo, nelle scelte degli investitori. Quindi occhio ai metalli preziosi nelle prossime settimane. Sara Tardelli. Odio i lunedì. Sarà che lunedì mattina passo dai sogni alla lettura dei giornali senza quasi accorgermene. Però, leggendo un articolo sui babbuini, mi è venuto in mente il PD. Anche se anche gli altri partiti potrebbero farci un pensierino. Allora, i babbuini seguono una rigida gerarchia. Per capirci, quelli che appartengono ai gradi più bassi della scala sociale devono spulciare i capi. Però, quando devono prendere una decisione importante per la comunità, il maschio alfa non esiste più. Se più babbuini vanno in direzioni simili, il branco si sposterà cercando una direzione media tra quelle prese dai singoli. Se invece le direzioni di due babbuini divergono troppo, il branco non si muove per non spaccare il gruppo. Il buonsenso, mi sembra, guida le leggi della natura. La malizia, quelle della politica, dove tutti alla fine del grande gioco perdono. Facce Tarzan. Accidenti. Che finale violento. Salamino! Devono tornare nelle fogne da dove sono venuti. Così ha detto il sindaco di Roma, Ignazio Marino, tra gli applausi dei convenuti alla festa dell'unità. È la destra che deve tornare nelle fogne, questo vuole dire il sindaco di una città, Roma, dove la destra storicamente rappresenta una parte non proprio minoritaria. E devono tornarci più precisamente i fascisti. E il sindaco, tra gli applausi, ha voluto ribadire un concetto chiaro e assai caro agli anni di piombo. Fascisti, carogne, tornate nelle fogne. È lo slogan che prepara al dogma con cui gli impuniti della vigilanza democratica hanno poi messo in atto una pratica, quella di uccidere un fascista non è reato. E non è stato reato. Damikis Mantakas, un ragazzo greco del movimento sociale, ad Angelo Mancia, alla strage di Acca Larenzia, a Paolo Di Nella, un ragazzo freddato senza altra colpa che quella di essere dello stesso partito, lo sa, sindaco, lo stesso partito di Paolo Borsellino. E la città di Roma sa bene che cosa sono stati quegli anni, per quanti ne sono stati ammazzati, per avere osato di uscire dalle fogne in cui i democratici come lei li volevano chiudere per fare eterna la guerra civile. Vorrei ricordare, sindaco, che al funerale di Paolo Di Nella volle andare l'allora presidente della Repubblica Sandro Pertini. Era partigiano, ma voleva chiudere la guerra civile. Evidentemente il sindaco ha il calendario fermo agli anni 70. Incapace di amministrare, si butta nella retorica. E già immagino quale sarà la prossima dichiarazione. Camerata, Basconero, il tuo posto al cimitero. Siccome io conosco quelle fogne, e in quelle fogne ci abito ancora, glielo dico in tutta allegria. Questa è estate, tempo di teche e di nostalgia. Si consoli con Tramanera. Tramanera, Tramanera, sol con te si fa carriera. Tramanera, Tramanera, tu dai la felicità. Ancora una bolla, Mario. Ah, sì, dai, eh. Dai, ci vogliono. In fondo dobbiamo, insomma, una musica un po' così, neanche tanto hard in realtà. Ci dobbiamo occupare di quella simpatica banda di tagliagole che scorrazza tra l'Iraq e la Siria, di cui tutti sembrano essersi dimenticati perché affaccendati a seguire greche. Altro, la Grecia, che è importante per certo. Carità, però forse ci dobbiamo ricordare che in fondo una buona parte dei problemi che stiamo vivendo nasce anche dal disordine che è in quell'area, cioè nel Medio Oriente. E la campagna degli alleati e dell'ISIS è in entrambi i casi in fase di stallo. È stata rallentata l'avanzata di ISIS, ma di fatto il controllo del territorio dei miliziani sunniti rimane molto, molto, molto forte, sia in Siria che in Iraq. Nessuno sta vincendo. Questo è un dato, un dato di fatto. Stanno perdendo i civili perché certo, ci muoiono. Sono massacri, cose indescrivibili che non consiglio ai deboli di spirito di guardare online. E giungono notizie poco rassicuranti da Palmira, dove sarebbero stati minati le splendide rovine della città. Forse adesso qualcuno, guarda, su questa notizia si risveglierà un po' di più, diciamo. Però la situazione non è incoraggiante. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS pubblicità. Mix 24. Salamino. Un'estate al mare, voglia di remare. Sarà estate, ma i russi sono tutti in fuga. I russi se ne scappano via. Non ci riuscì Napoleone, dovette capitolare. Non ci riuscì Adolfo Hitler, fermato anche lui dal generale Inverno, ma c'è riuscito Matteo Renzi ed è riuscito nell'impresa di fare scappare i russi. Cioè, i ricchi turisti, fino ad oggi villeggianti tra Forte dei Marmi e Viareggio, quelli carichi di soldi e spendaccioni come pochi, se ne vanno via. E le spiagge, un tempo dorate, sono adesso plaga a disposizione della paccottiglia abusiva. Ho beccato oggi un interessante reportage di Stefano Zurlo sul Giornale, dove si racconta l'ultimo paradosso dell'estate d'Italia nelle mani di Matteo Renzi. E cioè l'ultimo contraccolpo delle sanzioni contro la Russia, perché dopo la devastante crisi del comparto agricolo nel Triveneto e dopo la spaventosa crisi nel comparto artigianale, per esempio nelle Marche, nell'industria del turismo, è arrivato questo segno meno che si aggiunge a quello del lusso. E non è finita. I clienti della Movida, lì in Versilia, devono vedersela nottetempo anche con la violenza e il degrado nella pineta, che è diventata appunto dominio degli spacciatori. Allora, il racconto di Zurlo fa capire come per esempio una strisciata di carta di credito in Versilia, dove vale dalle 1.000-1.300 euro, che è il doppio del resto d'Italia, adesso ha avuto questo spaventoso segno meno. E perfino Buratti, sindaco del Partito Democratico di Forte dei Marmi, contesta la scelta del governo di accodarsi agli Stati Uniti contro la Russia. Insomma, come dice lui, gli italiani non hanno più il portafoglio di qualche anno fa. E quale morale se ne può trarre se non quella di accorgersi su come sa di sale già questa estate? Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra. E come tutti i lunedì, godiamoci il lunedì libro di Alessandra Fiori. Quanto delle nostre vite è stabilito dal destino e quanto dalle nostre decisioni. Niente come sembra e tutti mentono, nei Fratelli Friedland, il nuovo romanzo di Daniel Kehlmann. Arthur è un aspirante scrittore, disoccupato, che in un pomeriggio porta i suoi figli ad assistere all'esibizione di un maestro dell'ipnosi. Arthur è scettico, si dice immune a qualsiasi trucco, ma quando viene invitato sul palco dall'ipnotista, si ritrova a confessare i propri segreti e le proprie aspirazioni più recondite a un pubblico attonito. Profondamente segnato dall'esperienza, quello stesso pomeriggio Arthur abbandona i figli sulla soglia di casa, svuota il conto in banca e sparisce. Passano gli anni e alla vigilia dello scoppio della crisi finanziaria del 2008, Arthur si è trasformato in uno scrittore di grande successo, mentre i suoi figli sono invischiati in esistenze infelici e costruite sulla menzogna. Martin, il più grande, è un parroco obeso, ossessionato dal cibo, che in Dio non riesce proprio a credere. Eric è un uomo d'affari sull'orlo del baratro, che conduce una doppia vita professionale e sentimentale. Ivan, che aveva un grande talento per la pittura e sembrava destinato alla fama, è un falsario. Vite bugiarde, imprevedibili, grottesche, nascoste dietro l'illusione di esistenze normali. I Fratelli Friedland, di Daniel Kehlmann, Feltrinelli. Mario, ancora una bolla? Sì. I stay out too late. Got nothing in my brain. Allora, non è che sia questo enorme talento musicale Taylor Swift, no. Io, diciamo, un'asticella un po' alta, però vabbè, comunque è carina, è brava, si sa muovere, è una showgirl vera, sa ballare, i suoi spettacoli sono divertenti, anche i video. Però ha fatto una cosa che è molto interessante dal punto di vista del mercato musicale. Quando tu provi i servizi di Apple, nel periodo di prova, Apple non paga le royalties agli artisti. Taylor Swift ha fatto una causa, di fatto l'ha vinta, quindi Apple dovrà pagare anche durante il periodo di prova. Questo è molto importante dal punto di vista, appunto, tu devi pensare a un mercato globale, che cosa significa tutto questo. E Apple deve lanciare alla fine di questo mese il suo nuovo servizio di streaming. Voleva andare musicale. Sul sicuro, adesso deve rischiare un po', anche deve rischiare un po'. D'altronde il motto è: noi non ti chiediamo di vendere i tuoi telefonini a zero, quindi non puoi pretendere di pagarmi zero. Non è male come cosa, direi. C'è tutta la questione del diritto d'autore che noi abbiamo affrontato. È un temone, un tema grande di consumo. Per chi avesse perso questa puntata può ascoltarla in replica questa sera alle 23 nell'estate del 68. Quello di cui parliamo e racconteremo la storia è stato l'uomo più invidiato d'Italia per la sua storia d'amore con Brigitte Bardot. E Gigi Rizzi, attore, playboy, con Marina Milone, a 2 anni dalla sua scomparsa, dopo il giornale radio, raccontiamo la sua storia. E prima della pubblicità, l'amore è una cosa semplice, di Tiziano Ferro. A domani. Ti verrò a prendere con le mie mani e sarò quello che non ti aspettavi. Sarò quel vento che ti porti dentro e quel destino che nessuno ha mai scelto. E poi l'amore è una cosa semplice e adesso te lo dimostrerò. Questo sono io, solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere ma mai per caso. Sono io, ci ritorno e se poi vado. Questa è la mia gente, sono le mie strade, le mie facce, i ponti che portano a quando ero bambino, bruciando ricordi ed essendo sincero, rimango presente, ma non sono com'ero, e quella voglia di dirti ridendo, ti verrò a prendere con le mie mani, e sarò quello che non ti aspettavi, sarò quel vento che ti porti dentro, e quel destino che nessuno ha mai scelto, e poi l'amore è una cosa semplice, e adesso, adesso, adesso te lo dimostrerò. Io prendi le mie mani ancora e ancora, come chi parte non saprà mai se ritorna. Ricorda, sei meglio di ogni giorno triste, dell'amarezza, di ogni lacrima, della guerra con la tristezza. Tu sei